Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi ricordiamo Giovanni Boccaccio perché quest'anno, lo abbiamo ricordato a giugno, cade il 700° anniversario della sua nascita e in questa occasione ritorna il Decamerone, il suo capolavoro, una delle opere principali, più importanti della letteratura italiana, che fu scritta dal Boccaccio a partire del 1349. Ricordate la cornice del libro, 7 ragazze e 3 maschi che cercano rifugio dalla peste che sta divorando Firenze, si rifugiano in una villa e lì decidono di intrattenersi raccontando ciascuno per 10 giorni una novella su un tema scelto di giorno in giorno. Il Decamerone, dicevo, torna in una nuova edizione critica curata da Amedeo Quonda, Maurizio Fiorilla e Giancarlo Alfano, 3 italianisti importanti, la casa editrice Rizzoli, 1852, pagine, 18 euro. Un'edizione ricca ma leggera di peso, nonostante la mole, che si presta anche a essere aggiunta alle letture estive, se, come per esempio faccio anch'io, vi piace in questo periodo anche riaccostarvi a qualche grande classico. Di quelli magari ai quali ci siamo avvicinati soltanto durante le svogliate letture scolastiche. Il Decamerone certamente lo merita, non solo per essere un monumento della nostra lingua e un pilastro della letteratura italiana, ma anche per il gusto che la lettura di Boccaccio assicura ancora. E sentiamo sul Decamerone uno dei curatori di questo libro, Amedeo Quondam. Buongiorno ad Amedeo Quondam. Buongiorno a voi, grazie. Amedeo Quondam, la prima domanda: come mai, al di là dell'occasione del centenario, avete sentito il bisogno di curare questa nuova edizione critica del Decamerone? Per una doppia serie di ragioni che stanno una dentro l'altra. Da tempo nella Burr Rizzoli, come associazione degli italianisti, abbiamo avviato proprio un programma di rifacimento di edizioni dei classici, un po' quelli soprattutto del canone, per farli rispetto alla mutata condizione del lettore medio, oltre che dello studente medio. Per quello che riguarda il Decameron, l'ultima edizione commentata, quella gloriosa a cura di Vittore Branca, risale a 50 anni fa, anche di più forse. E quindi dopo mezzo secolo, tenendo conto della quantità e qualità notevole di studi che a partire proprio dal magistero di Branca si è dispiegata, era opportuno rifarla. Ecco, lei nella sua introduzione scrive che al lettore che si voglia accostare a Boccaccio e al Decameron serve una grande partecipazione anche affettivamente appassionata e ancora di più una grande sua curiosità per tante cose che non ci sono più. Ecco, qual è la curiosità con la quale dobbiamo affrontare il Decameron? Questo sì, un po' questo vale per tutti i classici che vengono da un passato veramente remotissimo e altro. Però i classici sono tali proprio perché continuano ad attivare curiosità nel lettore, anche quello più occasionale. E in questo caso per Boccaccio c'è il grande mito del Medioevo, che è un mito che ha avuto un successo travolgente, più del mondo classico dello stesso Rinascimento, il Medioevo che fa parte della contemporaneità. E quindi un Medioevo ovviamente non fantastico, magico, eccetera, ma un Medioevo pieno di cose e di persone di vario tipo e di varia natura. Quindi questa è la curiosità, proprio la curiosità per un mondo diverso in cui però sopravvivono dei dati antropologici profondi, costanti, che fanno parte anche della nostra umanità contemporanea. Fermiamoci a questo aspetto cronologico, al suo richiamo al Medioevo. Nella sua introduzione lei sottolinea come in fondo il Decamerone sia anche la testimonianza di una rivoluzione che è cominciata, una rivoluzione in atto di carattere economico, politico, sociale. Quali sono i tratti principali di questa trasformazione e come li tratta Boccaccio? Ma lì la cosa fondamentale, al di là di tutto, essendo poi Boccaccio uomo di una curiosità onnivora nei confronti del suo tempo e di quello che vede accadere, sono le trasformazioni proprio dello sguardo. Sta cambiando lo sguardo sul mondo, quello che poi, anzi già ai tempi di Boccaccio, viene chiamata Rinascita, insomma, con tutta proprio l'insieme di immagini, di metafore che si porta dietro questo tornare a vivere, rifiorire, tornare alla luce, eccetera. Quindi è uno sguardo sul mondo che sta cambiando, ma sta cambiando proprio nei suoi assetti culturali, con qualcosa però di singolare, che in Boccaccio affiora più la nostalgia del tempo antico, del tempo dei cavalieri antichi, il tempo della cortesia, quando le storie erano belle, alte, anche se tragiche. E in questo nuovo mondo di Boccaccio lo scrittore manifesta, lei scrive, una certa diffidenza, una certa, se non antipatia, comunque un sentimento non di grande simpatia verso la categoria del mercante, che forse è il simbolo di questa sì, trasformazione. Sì, antipatia no, siamo, io credo fermamente, se lei sanno che c'è questa interpretazione di Branca che ha fatto scuola per tanto tempo, no? Il Decameron come epopea del mercante. Io credo che questo si spiega con le ragioni che della cultura del dopoguerra scorso, insomma, della seconda metà del Novecento, ma oggi in un quadro diverso e con la cognizione che abbiamo oggi delle culture medievali, tutte le dinamiche che allora si attivano, è chiaro che è più facile riconoscere che in Boccaccio lo sguardo sul mondo e tener conto di le varietà delle cose del mondo e degli uomini che stanno al mondo, non è il mercante quello che lo affascina o lo coinvolge. I mercanti nel Decameron poi non è vero che siano poi tanti, e quei tanti o pochi che ci sono non sono protagonisti di novelle esemplari, non fanno una bella figura, insomma. Lei scrive che il Decameron è un prodotto unico, in qualche misura affronta un genere letterario nuovo, la novella, non ha antenati e neppure eredi e senza famiglia. Ecco, il fascino quindi del Decameron sta anche in questa sua unicità. Ma io credo sì, di sì, lì poi si gioca tutto, ma è la storia di Boccaccio affascinante, che è la storia di questo scrittore che ha una doppia faccia, proprio Jekyll e Hyde, nel senso che lui fino al Decameron pratica, sperimenta una scrittura fortemente innovativa di un genere che lui chiama volare basso, no? Una scrittura media, di intrattenimento, per divertirsi, e poi viene trascinato dal magistero di Petrarca sulle piste di quello che sarà poi la cultura umanistica, scrivere il latino con tutto quello che questo comporta. E quindi è affascinante vedere proprio questa discontinuità dentro la sua esperienza. E allora, se c'è questo percorso così abbastanza chiaro, perché lei lo definisce un simpatico pasticcione? È perché non ha lo spessore teorico di Petrarca. Petrarca se lo mangia veramente con un boccone, lo tratta a pesci in faccia, è una storia terribile quella dei rapporti tra i due, insomma. Per certi aspetti, adesso accentuo ovviamente sì, drammaticamente le cose, per, così, anche per fare la parte di Boccaccio che ci si divertirebbe sopra. Però lì il dato è questo, indubbiamente. Noi avevamo con il Decameron un dispiegamento sperimentale di una letteratura che gode del felice entusiasta del suo essere autonomo e non servire assolutamente a nulla, e poi adottare un modello letterario che sarà quello vincente, in cui la letteratura dovrà tornare a essere sì dolce ma anche utile, dovrà pur sempre tornare a insegnare qualcosa. E questa sarà la storia del grande classicismo di tutta la cultura poi europea durante l'età moderna. Ma lì è la cosa affascinante, vedere questa possibilità che si dischiude, si compie e poi resta lì senza eredi, appunto. In questa rivoluzione di Boccaccio c'è anche l'invenzione, come scrive, della centralità della donna. Questo sì, è impressionante, questo veramente impressionante. Impressionante anche se poi ovviamente è riferito a tutte quelle che erano già prima, ben prima, da un paio di secoli, insomma, le dinamiche della tradizione cortese, della nascita della letteratura, della poesia tra Provenza e Francia, il sistema appunto della finamor, la centralità della donna, della castellana, quindi della nobile donna, della gentil donna, non della donna qualsiasi ovviamente. Purtroppo c'è una marcatura fortissima di distinzione proprio in senso di ceto e di ordine sociale. Qui si parla soltanto dei cavalieri e delle dame. E quindi è impressionante vedere il dispiegarsi di questa centralità con un rilievo appunto che non c'era mai stato in passato e che non ci sarà mai più troveremo interlocutori o narratori in un rapporto 7-3 tra femmine e maschi. Come consiglia il lettore di oggi di accostarsi al Decamerone? Credo qualsiasi accesso è possibile. Abbiamo costruito anche il commento, tutte le note o gli strumenti per orientare il lettore in modo che un accesso anche casuale da una qualsiasi novella consenta di trovare le bussole o le informazioni per l'orientamento. Il mio consiglio per una lettura del tutto gratuita, i classici vanno letti proprio soltanto con la leggerezza del divertirsi e del piacere di leggerli. Quelli appunto che una volta si chiamava il piacere del testo. Grazie ad Amedeo Quonda, un curatore con Maurizio Fiorilla e Giancarlo Alfano della nuova edizione del Decameron. Buona domenica. Grazie, arrivederci. E proseguiamo con due libri fiorentini. Uno è dedicato alla grande scrittrice Oriana Fallaci, che troviamo nel libro di un amico, Umberto Cecchi, che è stato direttore della Nazione. Il libro si intitola Oriana Fallaci, Cercami dove il dolore, è pubblicato da Mauro Pagliai, 316 pagine, 13 euro. Troviamo anche un'interessante testimonianza di Franco Cardini in questo libro, che apre anche una polemica postuma, potremmo dire, nei confronti di Firenze, che secondo Cecchi non ha fatto nulla, cito dal suo libro, per spiegare, per farsi perdonare non tanto la sua assenza politica quanto la sua estrema limitatezza culturale, il suo comune, la sua università, i suoi intellettuali, se ne esistono ancora, scrive Cecchi, ma quel che è peggio, il suo popolo, sono rimasti assenti e silenziosi, laddove il resto del mondo alla morte di Fallaci l'ha salutata come uno dei più importanti giornalisti e scrittori del Novecento. Insomma, Firenze ingrata nei confronti della Fallaci. Allora qui troviamo un affettuoso ricordo della grande giornalista e scrittrice basato su tante conversazioni con la stessa. In questi incontri la Fallaci rievoca tanti momenti importanti della sua carriera, tante polemiche che sono rimaste famose, come quella per esempio contro una borghesia conformista che la Fallaci bollava con queste parole, richiamandosi a Pierpaolo Pasolini. E l'altro libro fiorentino invece ci porta in una Firenze nera, a suo modo appestata come quella del Boccaccio, e la troviamo nel noir di Michele Giuttari, che è stato capo della squadra mobile di Firenze, Il cuore oscuro di Firenze, pubblicato da Rizzoli, 466 pagine, 15 euro. La fuga di un serial killer, scoperchia qui un autentico verminaio con la presenza di un gruppo misterioso descritto con la padronanza e la partecipazione di chi ha vissuto le più importanti inchieste fiorentine negli ultimi anni. Un libro tira l'altro. Le note della Marsigliese ci ricordano che oggi è la festa nazionale francese. Il 14 luglio, 224 anni fa, cadeva la Bastiglia, e noi festeggiamo l'inizio della rivoluzione con due libri. Il primo è di uno storico di Parigi, Patrice Geniffet, si intitola Storie della rivoluzione francese, pubblicato da Bruno Mondadori, 230 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Francesco Dendena. Perché Storie? Perché qui lo storico raccoglie alcuni scritti che illustrano momenti e personaggi importanti della rivoluzione francese, da Lafayette fino al colpo di Stato che avrebbe poi spianato la strada a Napoleone, del quale parleremo successivamente. E quindi si capisce il giudizio dello storico, secondo il quale la rivoluzione francese avrebbe fallito perché non fu in grado, scrive, di dare alla nuova società nata degli eventi un regime stabile e duraturo. Mentre gli Stati Uniti vivono sempre governati dalla Costituzione del 1787, la Francia, aggiunge, ne ha promulgate una quindicina dopo quella del 1791. E ancora, aggiunge lo storico, caduta dal suo piedistallo, la rivoluzione del 1789 ha subito un vero e proprio declassamento. Insomma, una lettura molto critica che rimette in discussione molti miti e fondamenti anche della democrazia moderna, che nella rivoluzione francese trova certamente le sue radici o un tratto importante della propria storia. Un'interpretazione altrettanto provocatoria sulla rivoluzione francese francese troviamo nel libro di un grande studioso italiano, Guglielmo Ferrero, che morì nel 1942. Questo libro postumo fu infatti pubblicato nel 1951, si intitola Le due rivoluzioni francesi, è pubblicato da Rubbettino, 182 pagine, 12 euro. Ferrero fu un importante studioso sul tema del potere e, come spiega Alessandro Orsini nella sua prefazione, la teoria sociologica del Ferrero si basa sull'idea che il potere politico sia il principale agente del mutamento sociale, non l'economia, come diceva Marx, ma proprio il potere e la molla che spiega la storia. Perché Ferrero parla qua di due rivoluzioni? Perché secondo lui ci furono due fasi ben distinte. La prima del 28 giugno, quando, secondo lo studioso, Luigi XVI rivolse l'invito ai rappresentanti del clero e della nobiltà di unirsi al terzo stato per deliberare in comune, e la seconda rivoluzione, quella del 14 luglio, per l'appunto, quando la paura immaginaria della morte divenne realtà, scrive Ferrera, travolgendo gli argini della vita civile. E sentiamo come lo storico interpreta quella data fatidica. Per tutti quelli il cui interesse da un secolo è stato quello di portare alle stelle la rivoluzione francese, la presa della Bastiglia rimane il simbolo della conquista della libertà da parte del popolo. Gigante invisibile, il popolo di Parigi, trascinato da un movimento sublime e irresistibile di esaltazione, insorse e con un sol colpo rovesciò tutti i baluardi della tirannia. Attorno a questo episodio, uno dei più popolari della rivoluzione, la storia e la leggenda hanno ricamato numerose variazioni. La presa della Bastiglia non è stata che una sommossa seguita a tante altre, e che era principalmente la conseguenza dello stato di inquietudine in cui era immersa la Francia. Una sommossa, tuttavia, che aveva assunto proporzioni considerevoli e che si era rivolta contro un vecchio simbolo dell'antico regime, ma le sue conseguenze furono incalcolabili. Il fatto non fece in tempo a essere conosciuto in provincia che crollò improvvisamente la vecchia legalità monarchica e in pochi giorni tutti gli organi del potere rimasero paralizzati. Le caserme e i conventi si svuotano, l'esercito si disperde, i soldati non obbediscono più agli ufficiali e gli ufficiali non osano più dare ordini ai soldati. La polizia e la giustizia non funzionano più, nessuno paga più imposte, i castelli e i conventi vengono assaliti e saccheggiati. Contadini e borghesi fanno quella che Hollar chiama la rivoluzione municipale del luglio 1789. Si installano da padroni al posto delle autorità venute meno. Deliberano, organizzano milizie. Fenomeno unico al mondo di crollo subitaneo e totale di una vecchia legalità. La storia ci offre parecchi esempi di una distruzione parziale per effetto di una guerra sfortunata o di una guerra civile, di una congiura o di un colpo di Stato. Una rivoluzione distruttrice ha sempre un atto di violenza come punto di partenza. Ma qui fu in pieno periodo di pace, senza spinte esterne. Unicamente per cedimento interno che crollò nel 1789 la vecchia legalità della Francia, mentre il potere centrale restava ancora in piedi. Abbiamo accennato al colpo di Stato del 18 Brumaio e troviamo questo evento in un altro libro, in un'opera letteraria di uno dei maggiori studiosi intellettuali francesi contemporanei, Jean d'Ormesson, che si intitola La conversazione, pubblicato da Edizioni Clichy, 124 pagine, 12 euro, tradotto da Tommaso Guerrieri. Questo testo ci presenta un colloquio immaginario tra Napoleone e il secondo console, suo collega Cambaceres. Napoleone cerca di irretire il secondo nel proprio disegno per la conquista del potere che lo porterà poi a proclamarsi imperatore. È un'opera quasi in versi liberi, sotto forma di dialogo teatrale, nel quale Bonaparte si presenta come il grande pacificatore che coltiva l'idea non di ristabilire la monarchia, che è ormai improponibile perché è morta e sepolta, ma invece di dare vita a una nuova istituzione, l'impero, che dovrebbe riprendere gli ideali dell'impero romano. E sentiamo come Bonaparte spiega le sue ambizioni. Per la prima volta da tanto tempo, il potere in Francia è esercitato da un uomo che capisce i bisogni dei francesi e che si confonde con ciò che essi reclamano: ordine, gloria, pace, rispetto della religione, difesa dei beni nazionali. Quell'uomo sono io. Chiunque può misurare cosa ho fatto in Italia, in Oriente, in Francia. Credete forse che sia stato per fare la grandezza dei chiacchieroni e degli avvocati? La morte non è niente, ma vivere senza gloria è come morire ogni giorno. Ve lo dico chiaramente, Cambaser, non posso più obbedire. Io ho assaggiato il comando e non saprei più rinunciarvi. La conversazione è intrecciata con molte riflessioni sulla famiglia di Napoleone, sul nuovo assetto sociale che egli vuole stabilire basandosi esclusivamente sul merito. Tornare al vecchio fasto, dice Napoleone, ma con uomini nuovi, insomma, a partire da lui stesso. E un accenno indiretto a Napoleone troviamo nel libro di Raimondo Brandi, Napoleone e Albanese, romanzo di viaggio in Albania e Kosovo, è pubblicato da Mesogea, 272 pagine, 16,50 €. Questa è la cronaca di un lungo viaggio in Albania e Kosovo, dove l'autore incontra anche chi vuole convincerlo che Napoleone appunto era nato non in Corsica ma in Albania. Le avventure che si possono vivere in Albania sono pur sempre relative, ma il libro è piacevole anche per la ricostruzione delle vicende storiche dei molti ambienti che in Albania si possono trovare, per esempio quello artificiale chiuso in se stesso dei cooperanti e dei partecipanti alle tante missioni internazionali insediate in quel paese. Un libro anche particolarmente utile in questo momento per capire a che punto si trovi il paese che ha appena svoltato pagina dal punto di vista politico eleggendo un nuovo presidente del Consiglio, il nuovo premier Edi Rama, che era l'ex sindaco di Tirana di cui si parla nel libro stesso. E a questo punto. Il confettino. Vi segnalo la riproposizione di alcuni classici, anche questi utili per l'estate, proposti da PM. Il primo è Il piccole donne crescono di Louisa Alcott, tradotto da Laura Cangemi e illustrato da Domenica Pizzato, 526 pagine, 13 €. E il secondo di Robert Louis Stevenson, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, illustrato da Nicolò Pellizzone e tradotto sempre da Laura Cangemi, 164 pagine, 10 €. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Fabio Cantadori, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.